tu, signor, che Cherubino è ancora nel castello. E vedete per prova il suo cappello. Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Ah, scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciate all'altri abiti soli. Perfidi! Andiamo e li vedrete voi.